Rassegna eventi. Torna sul Wombat la rassegna eventi settimanale. Sì, eccoci, ci siamo. Anche questa è mancata per un bel po', ma ci risiamo. Ci risiamo e si riparte proprio da oggi, senza indugi. Vi lancio questo appuntamento che si terrà a breve. Oggi, essendo lunedì 8, si tiene il secondo incontro del ciclo per l'autodifesa sul lavoro organizzato dalla Camera del Lavoro di Firenze. L'appuntamento è alle ore 21 al Circolo Arci delle Panche, chiamato Il Campino, in via Giulio Caccini 13. E questa puntata, questo incontro si verterà su il lavoro flessibile, ovvero delle tante forme di lavoro flessibile. Questi sono i due appuntamenti che è cominciato la settimana scorsa con un incontro sul parlare del contratto, dei vari tipi di contratto e del lavoro senza contratto. E ogni lunedì si terranno questi incontri fino al 3 dicembre. Rivedremo volta a volta. Comunque il tema è il lavoro, fondamentalmente. Via Caccini, ore 21. Perfetto. L'altra cosa che c'è di lunedì, che ricomincia dal lunedì, è Lecce Pizze, organizzato dal collettivo studenti di sinistra. Questa è la 28ª edizione di questa iniziativa che propone cinema gratuito per tutti gli studenti universitari. Verissimo, a partire proprio da questo lunedì 8 ottobre, che come di consueto ci saranno due proiezioni. Si inizierà alle 20:31 con Si muore tutti di Democristiani. Una commedia dell'anno scorso, sì. Una commedia, sì, del 2017, diretto del terzo segreto di satira, distribuito, bla bla bla. Alle 20:31, alle 22:31 invece ci sarà Chiamami col tuo nome, un film di Luca Guadagnino. Ricordiamo che tutte le proiezioni si svolgeranno allo spazio Alfieri, l'ingresso è sempre gratuito, è aperto a tutti e a tutti. E il giorno è fisso, sarà sempre il lunedì, con una proiezione alle 20:31 e un'altra alle 22:31. Chiquita! Ma si va direttamente venerdì? No, ci sono altri appuntamenti tra weekend. Ci sono anche altre cose nel mezzo, sì, non riesco ad aprirle. Ricordiamo l'appuntamento settimanale con la club If Do, che si svolge in Polveriera ogni mercoledì alle ore 16 e 18. 18. Ci sta. E saltiamo, direi, all'appuntamento di venerdì 12 ottobre, presso Piazza San Marco, alle ore 9. Vi sarà il primo corteo studentesco dell'anno. Ho sentito in puntata il compagno della rete dei collettivi e ricordiamo anche l'appuntamento intermedio che è domani per la preparazione di questo corteo. Allo spazio Inchiostro in via Alfani si ritroveranno dalle 15:30 per appunto organizzare un minimo e darsi... Mettersi d'accordo su come sull'organizzazione del corteo e più in generale delle lotte che stanno portando avanti, innumerevoli e tutte molto importanti. A proposito, peraltro, dello spazio Inchiostro, mercoledì 9 dalle ore 15:30 alle 17:30, cioè sosteniamo il Kurdistan in lotta. Quindi. No, quella è un'altra cosa. È un'altra cosa? Sì, ti stai confondendo, è la cosa successiva che si svolge invece al CPA. L'incontro Non ti sentiamo più, caro Lapo. È il mio microfono che boccheggia. Ci sono? Non ci sono? Vai, ora ci sei. Dicevo, l'appuntamento che stavi citando si svolge al CPA. Un incontro per il sostegno della comunità curda. Ci sarà appunto un aperitivo cena con piatti preparati dalla comunità curda della Toscana, a cui seguirà un'assemblea con l'incontro partecipato da tre compagni internazionalisti europei che sono di ritorno dalle esperienze di solidarietà internazionalista in Kurdistan e in Siria del Nord. E quindi appunto molto interessante, ci sarà anche l'intervento video del compagno Orso che è laggiù da oltre un anno a combattere con lo YPG in Rojava. E la serata non mancherà ovviamente di concludersi con una serie di concerti con Fai fischiare l'orecchia Salvini Night. serata che sarà il ricavato della serata che sarà devoluto alle spese legali degli antifa foggiani che stanno subendo, insomma, la repressione. E questo è quanto per il CPA, mentre siamo sempre a venerdì, purtroppo tutto contemporanea, ma questo dimostra anche la grande ricchezza capacità e ricchezza dei liberati della città di offrire appunto cose interessanti. E prego, appunto venerdì 12, sempre venerdì 12, presso la polveriera Spazio Comune c'è la prima festa dei Riders Fiorentini, che si intitola Riders on the Storm, che vedrà la presentazione del progetto RUF e naturalmente un aperitivo dalle ore 19 con a seguire DJ set con DJ Machine Funk, si può dire. DJ Kawa e Moder. E un live painting di Open, naturalmente ingresso libero. E Leonessi a chiudere con un live set. Esatto. Non finisce qua la settimana perché abbiamo cose molto molto interessanti anche sabato 12. Esatto, l'appuntamento pomeridiano, finalmente non solo di sera facciamo le cose in questa città. C'è questo incontro interessantissimo al Cecco Rivolta, in via Petrodazzi, al Cecco dove, ricordiamo, si svolge sempre il nostro amato calcio dal basso. Il torneo... L'incontro sarà intitolato Abitare illegale, etnografie del vivere ai margini in Occidente. E ci saranno l'autore Andrea Staid, che è un antropologo milanese, appunto, che ha scritto questo libro. Sì, e non sarà solo una presentazione, ma in realtà un dialogo aperto che si svolgerà all'ora di pranzo fra varie forme di abitare illegale che si proveranno a mettere in confronto con questo antropologo, a cercare di fare da coordinatore, insomma, di una discussione a cui in realtà chiunque è invitato, sia che sia interessante o sia che pratichi, sia interessato o sia che pratichi una forma qualunque di abitare illegale. Poi la giornata prosegue, si sposta di poco, siamo sempre in quel di Castello, perché all'Emerson comincia il primo degli appuntamenti del mese di compleanno dell'Emerson. Quest'anno appunto tanta è la voglia di fare che si considererà compleanno dell'Emerson tutto questo mese, tutti gli eventi che avverranno. E diciamo, ci spostiamo dal Cecco Rivolta all'Emerson, perché alle 6 inizia una presentazione interessantissima a cura del collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud, che presenta un'indagine su un'epidemia, ovvero lo straordinario aumento delle disabilità psichiatriche nell'epoca del boom degli psicofarmaci. È una presentazione di un libro, l'autore è Robert Whittaker, che è un giornalista e scrittore statunitense che si occupa di medicina, scienza e storia. Dopodiché segue una grande cena di compleanno a cui è essenziale prenotarsi entro mercoledì 10. Scrivendo assemblea@csaexemerson.it, trovate comunque l'indirizzo in ogni dove, soprattutto sul sito dell'Emerson. Seguirà la milonga al Tango Sognato e poi nel bistrò invece il concerto dei Polemica e degli Hilary Binder, non so come si pronuncia. Assolutamente comunque... Binder. Hilary Binder. E questo è un po' quello che ci offre l'arcipelago di spazi liberati nella città in questa settimana. Mi veniva anche da citare due eventi che invece si terranno al di fuori della nostra città, perché c'è l'Internet Festival al Teatro Verdi di Pisa. Sembra molto interessante. Più che altro ci interessa, mi è saltato l'occhio perché partecipa a uno degli incontri Andrea Borgnino, conosciuto pioniere, come descriverlo? Non saprei. È un grande esperto, un pioniere del web, delle radio libere, delle, che è forse un pioniere in un certo senso, un incontro con Radio Wombat all'Emerson. Vabbè. E non solo, c'era anche un altro evento sempre per il 12, che è venerdì, Libre Casentino Book Festival, se non mi sbaglio. Sì, un festival in Casentino. Organizzato dal Libre Casentino Book Festival, e che si terrà il 12, 13 e 14 di ottobre in quel del Casentino. non abbiamo messo altre informazioni, ma ve le... Di Mugello. No, di Mugello no, non mandiamo gli ascoltatrici e gli ascoltatori in altri posti. Comunque dai, questo lo sapete, è così. Statece. buon settimana. Wombat. Rassegna eventi.